cuore e denari. I consigli della settimana. E oggi è l'appuntamento con i consigli per la famiglia. Torna Cuore e Denari in Famiglia il nostro amico e psicoterapeuta dell'età evolutiva Alberto Pellai, che salutiamo con affetto. Alberto, buongiorno. Buongiorno a voi due, buona domenica a tutti. Tutte le domeniche con te, Alberto, rivediamo qualche notizia che ha avuto per protagonisti i nostri figli, cerchiamo di commentarla insieme. Insomma, proviamo a vincere qualche sfida educativa, come dici tu. Sì, penso tra le altre cose che sia proprio una cosa importante per i genitori condividere coi figli le notizie della cronaca che hanno adolescenti per protagonisti, è proprio come fare una lezione di storia contemporanea, prendere dall'attualità elementi che ci permettono di approfondire sfide educative. E questa settimana la cronaca è stata molto ricca. Alberto ha scelto non una, ma ben tre notizie, e non a caso hanno un filo rosso che le accomuna, che è la scuola. Le prime due sono molto legate tra di loro, riguardano i ragazzi con una disabilità che potremmo anche chiamare una sfida speciale, che hanno fatto proprio notizia e di cui i media si sono occupati in questi giorni. Alberto, ce ne vuoi parlare? Sì, la prima è una notizia di cui hanno parlato in tanti e è relativa al fatto che alcuni compagni si sono lamentati contro una studentessa disabile della loro scuola perché la gita, secondo loro, è stata cancellata proprio a causa della sua disabilità. Nell'approfondire poi la conoscenza della notizia si è visto anche che c'era stato uno schieramento dei genitori, cioè molte mamme e papà dicevano: i nostri figli non possono rinunciare a qualche cosa semplicemente perché hanno una compagna che poi non potrebbe partecipare alla loro stessa attività o d'esperienza. E questa cosa ha fatto molto discutere, prima di tutto perché è successa in una scuola che era molto attenta all'integrazione e all'inclusione, e in qualche modo ha generato una sorta di conflitto tra la famiglia che ha un problema da gestire, cioè la propria figlia disabile, e le famiglie invece i cui figli convivono con la disabilità di questa ragazza, e invece di considerarla un'opportunità e una risorsa, ne sottolineano invece solo la dimensione del vincolo. C'è poi la battaglia di Pierre, il primo laureato autistico, e lui ha detto: Alberto, esco finalmente dalla prigione di cristallo. Sì, questa notizia ha veramente colpito molto, credo, tutti. È la prima volta che un ragazzo che ha una diagnosi di autismo riesce a completare un titolo di studi superiore di questo livello, e in qualche modo si capisce nel leggere le notizie che hanno raccontato, le cronache che hanno un po' poi messo sotto la luce dei riflettori questo traguardo, si capisce l'enorme lavoro che hanno dovuto fare i genitori insieme a questo ragazzo per arrivare fino a lì, e in qualche modo si intravede anche un po' il senso di solitudine, di isolamento, cioè una cosa che la famiglia ha proprio presidiato molto, credendo nelle capacità, nelle competenze, nelle possibilità del proprio figlio, ma all'interno di un sistema che però ha messo tantissimi vincoli e tantissimi ostacoli. Io le ho un po' scelte come notizia perché mi sembra che tutte e due abbiano poi l'idea che l'integrazione, l'inclusione in situazioni complesse o di difficoltà non sia mai un traguardo dato per scontato, ma sia un lavoro lento, molto continuo e progressivo, dove ognuno di noi deve un po' mettere il suo mattone, cioè proprio mattone su mattone che si costruisce la capacità di includere nelle scuole, nelle classi dei nostri figli, soggetti che magari hanno un problema nella fase di partenza della loro vita, e i nostri figli però devono davvero essere supportati tanto da noi genitori nel capire che la presenza, per esempio, di un soggetto disabile o di un autistico nella loro scuola non è solo un vincolo, ma anche un'opportunità. Andrei allora a questo punto alla terza notizia. Sentiamo che cosa è successo mercoledì. E questo il coro dei bambini che frequentano l'istituto comprensivo di Siracusa, che hanno accolto il premier proprio al grido di Matteo, Matteo. I bambini in coro, quasi da stadio, hanno voluto dedicare al premier una canzone addirittura personalizzata e dedicata a lui. Facciamo un salto, battiamo le mani, ti salutiamo tutti insieme, presidente Renzi. Poi tra l'altro il testo, come va di moda in questo momento, è stato anche pubblicato su Twitter da una giornalista di Rai 3 che ha raccontato: quel foglio era in mano ad un insegnante, stavano provando. La scuola tra l'altro è stata messa dal nostro nuovo primo ministro, da Matteo, insomma, al centro dell'agenda politica, e lui per dimostrarlo ha fatto proprio le sue prime uscite nelle scuole. Ma la sua presenza in questa scuola elementare di Siracusa lo ha messo al centro di un'enorme polemica. C'è chi l'ha descritta come un'atmosfera da uomo della provvidenza. Per molti commentatori, infatti, l'effetto riporta addirittura certe immagini dei cinegiornali di regimi del passato. E sia tra chi critica che tra chi difende Matteo Renzi si parla anche di strumentalizzazione dei bambini. Allora, Alberto, qua vogliamo un po' di fare un pochino di chiarezza, insomma, di vedere come la pensi tu, per avere anche degli stimoli di riflessione da condividere in casa? Guarda, io in questo momento parlo molto più da genitore che magari da esperto del settore. Personalmente credo che la scuola sia stata veramente la Cenerentola dimenticata dalla politica degli ultimi 15 anni, e tra le altre cose noi mamme e papà che abbiamo i nostri figli a scuola ce ne accorgiamo ogni giorno. Qualsiasi cosa, qualsiasi attività, qualsiasi anche oggetto serva alla scuola deve essere finanziato con attività e con fondi che vengono direttamente raccolti dai genitori, proprio perché non c'è la possibilità di promuovere alcun genere di progetto speciale o di acquisto, non esistono fondi pubblici per la scuola. Per cui io aver trovato da anni non c'era un premier che dice che la scuola è in cima alla sua agenda, lo ha detto, ed è vero che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, però secondo me lo ha detto in modo forte e convinto, e quindi io personalmente ho immaginato che questo suo farsi vedere proprio nei primi giorni di mandato in mezzo a dei bambini dentro una scuola a contatto con chi la scuola la fa e la viva sia in verità un segno proprio di speranza, di coerenza, di testimonianza con quello che ha dichiarato, e quindi io non l'ho visto così scandaloso, anzi io l'ho visto proprio come un gesto che mi dà speranza. Alberto, stiamo andando verso la sintesi finale. Se dovessimo dire ai genitori, alla luce di queste notizie che abbiamo commentato insieme, a cosa fare attenzione, dare eventualmente qualche consiglio, e ti chiedo rapidità anche con i consigli di lettura di oggi. Ma direi che la conclusione è che la scuola prima di tutto è una cosa di tutti, è bene che ci occupiamo dei nostri figli e dei figli degli altri nella scuola, è bene che insegniamo ai nostri figli i valori dell'inclusione e dell'integrazione, e ai nostri politici chiediamo e pretendiamo di darci una scuola migliore. Io non ci credo più a politici che dicono che togliendo risorse si costruisce una scuola migliore. E invece per i consigli di lettura direi che un libro che è molto in tema con quello che abbiamo detto, il nuovo libro di Franco e Andrea Antonello, che sono il papà e il figlio che avevano scritto Se ti abbraccio non aver paura, hanno scritto un nuovo libro dove descrivono la loro esperienza di padre e figlio con un autismo da gestire in famiglia, si intitola Sono graditi, visi sorridenti, ed è pubblicato da Feltrinelli. Per i bambini un libro che ha un titolo che la dice tutta, Storia di una lumaca che scoprì l'importanza della lentezza. Lo ha scritto Luis Sepulveda, è pubblicato da Feltrinelli, e spesso le cose migliori sono delle cose che non appaiono subito perché sono forti, veloci e potenti, ma vengono scoperte proprio lentamente. Grazie ad Alberto Pellai per essere rimasto con noi. Deborah, invece noi pianin pianino domani alle 11 ritorniamo in diretta come tutti i giorni. Buona domenica.